a quanto pare ci sono, si ripropongono comunque due grandi visioni contrapposte e interpretazioni quindi conseguenti della guerra in cosiddetta civile. Anche su questo c'è, ci sarebbero comunque delle precisazioni da fare, perché in realtà c'è chi dice che non si può parlare di guerra civile in Costa d'Avorio in quanto la popolazione non sta, diciamo, vivendo un conflitto di questo tipo, ma sta vivendo un conflitto di invasione da parte delle potenze straniere, in particolar modo Francia e Stati Uniti. Ma per capire bene quelle che sono le dinamiche che da qualche mese a questa parte si verificano in Costa d'Avorio, credo che sia necessario fare un breve quadro storico, economico e politico della Costa d'Avorio. Anzitutto, per chi non lo sapesse, la Costa d'Avorio si trova nell'Africa occidentale francofona, confina ad ovest con la Liberia e la Guinea, a nord con il Mali e il Burkina Faso e ad est con il Ghana, a sud naturalmente con il Golfo di Guinea. La Costa d'Avorio è una repubblica presidenziale con capitale Yamoussoukro e ovviamente raggiunge l'indipendenza nel cosiddetto anno dell'Africa, il 1960, l'anno in cui quasi tutti i paesi dell'Africa hanno raggiunto l'indipendenza. Nonostante comunque la Costa d'Avorio soffra, come moltissimi paesi dell'Africa, di una dilagante corruzione, è sicuramente uno dei paesi più prosperi dell'Africa occidentale e non solo. Il padre fondatore, guida spirituale, leader carismatico, è stato Boigny, Félix Houphouët Boigny, che è rimasto in carica fino al 1993. Allora, vediamo un attimo. La Costa d'Avorio, come abbiamo detto, rappresenta una delle economie più forti dell'Africa subsahariana, nonostante, diciamo, contemporaneamente si possa dire che si tratti di un'economia fragile, perché basata sulle esportazioni di materie prime, quindi un'economia condizionata da una serie di fattori, tra cui anche la siccità o comunque le variabili meteorologiche, che in Africa comunque sono abbastanza rilevanti. E quindi il suo mercato dipende principalmente dal settore agricolo, in particolare dal caffè e dal cacao. La Costa d'Avorio è il maggior produttore ed esportatore al mondo di cacao e caffè e anche di olio di palma. Gli anni 60 e gli anni 70 sono stati anni comunque di una certa stabilità politica e discreta crescita economica. Negli anni 80 invece, gli anni ovviamente della crisi del debito, gli anni che hanno visto comunque grandi problematiche economiche, anche la Costa d'Avorio comincia a soffrire comunque instabilità, di crescenti malumori, di agitazioni comunque sociali. In questo periodo si verificano una serie di manifestazioni, principalmente agitazioni studentesche e manifestazioni legate comunque al malcontento di quelle che sono, diciamo, le forze armate rilevanti comunque anche sul territorio della Costa d'Avorio. E nel 1973 e nel 1980 si verificano inoltre rispettivamente un tentativo di colpo di stato militare e un attentato alla vita di Boigny. Tutto questo, negli anni di questo comunque forte arresto economico, si inaugura un programma di privatizzazione per cercare di diversificare comunque l'economia nazionale. Nonostante gli sforzi, questo programma non va a buon fine e l'agricoltura e le attività ad essa collegate rimangono, diciamo, la fonte primaria di lavoro e di sostentamento. Circa il 68% della popolazione del paese è impiegata in questo settore. Un altro settore di rilevanza notevole che prende piede soprattutto alla fine degli anni 70, in particolare nel 77, è quello manufatturiero, grazie poi alla scoperta di giacimenti di petrolio a largo della costa. E ovviamente questo poi provocherà un cambiamento rilevante anche nella condizione economica e sociale della Costa d'Avorio. Il principale, tra l'altro, legname di esportazione è il mogano e le estrazioni minerarie invece sono legate, comunque dipendenti principalmente dai diamanti, dal manganese, dal nickel, dalla bauxite e dall'oro. Quindi tutto questo per dire che comunque la Costa d'Avorio è sicuramente un paese con una forte economia, o almeno con delle forti ricchezze, delle grandissime ricchezze e risorse, quindi un paese guardato con molto interesse dalla comunità internazionale, dagli Stati Uniti, ma dagli stessi stati comunque dell'Africa subsahariana e non solo. Un esempio può essere quello che nel 2002 il PIL pro capite degli ivoriani raggiungeva i $710, che questo è un dato molto rilevante per comprendere quella della situazione economica, perché rappresenta un'eccezione in effetti nell'Africa subsahariana. Comunque, ritornando invece al discorso politico, abbiamo detto appunto che l'indipendenza viene raggiunta nel 1960 con Boigny. Boigny è figlio di un capo tradizionale, si laurea in medicina nel 25 e comincia una lunga carriera politica che in realtà inizia, oltre ad iniziare molto presto, si basa sin dal principio su fortissimi legami con la Francia. Infatti è in Francia comunque che Boigny diventa diventa ministro e più volte nel 56 fino al 59 fino a ricoprire poi invece l'incarico di primo ministro della Costa d'Avorio ancora prima dell'indipendenza e dopo l'indipendenza presidente della Repubblica. Boigny instaura un programma politico basato principalmente sul liberismo economico e sull'autoritarismo politico. Ricordiamo che anche uno di quei leader africani che ha cercato in tutti i modi di contrastare la diffusione del marxismo o comunque del comunismo in Africa, perché attraverso comunque armi, attraverso insurrezioni, si dice che sia coinvolto direttamente nella morte, nell'attentato a Sankara. Quindi comunque c'è un leader riconosciuto sicuramente dalla comunità, ma un leader contrastato e soprattutto legato agli interessi delle potenze occidentali. Il principale oppositore di Boigny era già dagli anni 70 Babou. Babou è stato costretto in effetti anche proprio a causa di questa sua opposizione al presidente a scappare e vivere in esilio in Francia per un periodo comunque limitato, ma pur sempre importante, in quanto lui cercava in tutti i modi di scalfire il potere di Boigny, di cercare di far aprire il paese comunque al multipartitismo, cosa che poi arriverà molti anni dopo, sempre negli anni 90, che sono gli anni della democratizzazione, in cui si parla degli anni del vento di democratizzazione in Africa, in cui quasi tutti i paesi si aprono al multipartitismo apparente. Quindi dopo 33 anni di dominio assoluto Boigny muore nel 1993 e designa come suo successore Badié, che in quel momento vince la battaglia di successione contro Ouattara, che oggi appunto vediamo come uno dei protagonisti di questa forte crisi. Ouattara ha una storia interessante, perché potrebbe in qualche modo far capire anche i motivi oggi dell'opposizione da parte comunque di Babou a Ouattara, ma anche del sostegno che la comunità internazionale dà a Ouattara. Ouattara, ricordiamolo, ha studiato in America, è stato consulente di spicco del Fondo Monetario Internazionale, ha lavorato per la Banca Mondiale Africana, insomma sicuramente una figura di riferimento per la Francia anzitutto e per tutta la comunità internazionale. Ritornando alla Costa d'Avorio, quindi arriva al potere Badié che rimane al governo fino al 99, quando c'è poi un colpo di Stato che porta al potere i giovani ufficiali e in particolare Robert Guei. Nel periodo di Badié c'era stata una lunga lotta contro Ouattara, accusato di non essere un ivoriano puro. Questo è uno dei punti, tra l'altro, salienti, che ritorna comunque nelle proteste attuali, perché Ouattara in effetti, ricordiamolo, ha una o genitori comunque burkinabè, del Burkina Faso, e oltretutto non pare che abbia mai vissuto sul territorio ivoriano per più di 3 anni di seguito. Questo era anche quello che gli contestavano per quanto riguardava la possibilità di candidarsi come presidente, in quanto oltre a non avere nazionalità della Costa d'Avorio non aveva neanche vissuto comunque sul territorio. E fu proprio per questo che nelle elezioni dell'ottobre 2000, del 2000 Ouattara non poté candidarsi, e ci fu invece principalmente una competizione elettorale che vide affrontarsi Babò da una parte e dall'altra invece c'era sempre Badié. E Babò, ricordiamolo, comunque nel 1982 fondò il Fronte Popolare Ivoriano. Comunque è un partito molto nutrito, sostenuto e composto dai giovani, dalle donne, dalle associazioni comunque degli avvocati, dalle forze armate, insomma un partito comunque che riuscì anche tra l'altro a farlo eleggere proprio nel 2000, quando il suo rivale si rifiutò di accettare il risultato della competizione elettorale. Questo è, ovviamente lo ribadisco, è un brevissimo excursus politico, però andrebbe sicuramente affrontato in modo molto approfondito, perché sono in quegli anni che si creano poi le dinamiche, o comunque si creano le cause, cioè diciamo che si determinano le cause principali della crisi attuale. In ogni caso la pace dura, diciamo la stabilità dura fino al 2002, fino a diciamo anno in cui scoppia il conflitto in Costa d'Avorio per un'invasione nel nord da parte dei ribelli. Chi sono questi ribelli? I ribelli appunto sembrano essere guidati, finanziati da Ouattara, cioè grazie al sostegno della Francia, della comunità internazionale, e provenienti soprattutto dal Burkina Faso, dal Mali, cioè da comunque paesi limitrofi, vicini, ma in realtà anche dalla Nigeria, assoldati tra le fasce diciamo più povere e disperate delle periferie di questi paesi. Già per questo scontro esistono due versioni. Da una parte c'è la versione ufficiale, che parla di soldati ribelli che cercano di prendere il controllo di alcune città, tra cui Abidjan, e poi si diffondono, diciamo, prendono piede e cominciano ad attuare comunque una sorta di contestazione anche in altre parti del paese, tra cui il centro e il nord. La situazione si evolve facilmente in guerra civile, e il sud rimane, diciamo, da una parte il sud controllato dai governativi, il nord controllato dai ribelli, quindi il paese comincia a spaccarsi in due. La versione ivoriana invece è di alcuni giornalisti indipendenti che si trovano sul posto, parla, come diciamo prima, di alcuni ribelli pagati dal governo francese per destabilizzare un potere politico fastidioso, autonomo, slegato comunque all'economia e agli interessi principalmente dell'economia internazionale e francese. Quindi non si parla neanche in questo caso, e questa è una somiglianza che poi ritroviamo anche nella situazione attuale, non si può parlare di guerra civile, ma di una penetrazione di ribelli, comunque di una guerriglia che cerca in tutti i modi di destabilizzare Babò e il suo programma, cioè comunque politico. Gli accordi di pace del 2004 falliscono miseramente. Perché falliscono? Perché dopo la firma dell'accordo, Babò comunque ottiene almeno una condizione, cioè quella di arrivare ad elezioni senza con i ribelli, diciamo, disarmati, quindi il disarmo dei ribelli, cosa che ovviamente non succede, e spinge nel 2004 Babò ad attaccare i ribelli. Quindi ci sono degli attacchi aerei. Durante questi attacchi aerei vengono uccisi involontariamente 9 soldati francesi, e nasce ovviamente un grande scontro tra Francia e Costa d'Avorio, ma in particolare Babò, perché la Francia non crede assolutamente all'ipotesi di un evento comunque involontario, e di conseguenza distrugge gran parte degli aerei militari ivoriani. Quindi un rapporto con la Francia che peggiora, che si incrina sempre di più, e e che appunto, cioè, che comincia ad assumere un peso rilevante nel cercare di determinare comunque le linee di questo, le linee guida di questo conflitto. Il 4 marzo del 2007 viene firmato in Burkina Faso, a Ouagadougou, un nuovo accordo di pace con il leader delle Force Nouvelle, che poi è Soro, che poi alla fine diventa anche primo ministro, cioè dopo gli accordi comunque di pace. E quindi in realtà c'è degli accordi di pace molto controversi, perché dovremo, cioè, vedere quali sono le condizioni comunque precise e particolari di questi accordi. Possiamo metterne in evidenza alcune. Allora, anzitutto bisognava nominare un nuovo primo ministro gradito ai ribelli, e viene nominato Soro. Arruolare formalmente i ribelli nelle forze armate, quindi assumerli e, come si dice, accasermarli. Poi organizzare al più presto le elezioni presidenziali. Ovviamente questi sono gli accordi del 2007. Negli accordi precedenti del 2004 c'erano anche altre condizioni, tra cui formare comunque una commissione elettorale indipendente in cui siano rappresentati in modo maggioritario i delegati dei ribelli. Queste sono condizioni che metto in evidenza perché poi creano dei presupposti, cioè, che andremo adesso a vedere, diciamo, alla base di questo conflitto. Ovviamente la Francia, dopo gli accordi del 2007, cerca di spingere in ogni modo la Costa d'Avorio ad elezioni, diciamo, ad elezioni, a una competizione elettorale, pur sapendo, insomma, che non ci sono i presupposti. Perché? Perché nel nord del paese ci sono ancora i mercenari armati, i ribelli appunto non sono disarmati, il paese ha una situazione difficilissima da risolvere per quanto riguarda anche la schedatura dei votanti. Allora, in Africa, a parte adesso la Costa d'Avorio, c'è sempre un problema molto forte in quasi tutti i paesi comunque dell'Africa subsahariana, legata alla al voto. Molte volte la maggior parte della popolazione non riesce ad andare perché non ha ricevuto i documenti elettorali, perché non è registrata, perché non ha documenti, perché poi molte volte appunto documenti falsi vengono manipolati da altri. Insomma, questa sembra essere una costante comunque, non solo in Costa d'Avorio, però è vero anche che in Costa d'Avorio, dopo i disordini che c'erano stati dal 2002, molti degli archivi comunali, molti dei documenti vengono distrutti, e praticamente la campagna che il governo stava facendo per il censimento della popolazione e per il perfezionamento della registrazione praticamente si arresta, e i risultati raggiunti fino a quel momento si perdono completamente. Anche perché è vero, io ho detto che si tratta di una costante, però è anche vero che, ribadiamolo, la Costa d'Avorio è un paese molto diverso dagli altri paesi dell'Africa subsahariana, un paese con un tasso di istruzione elevato, con una coscienza anche politica abbastanza forte, con un'economia comunque sostanzialmente rilevante e forte, e quindi comunque un paese all'avanguardia, un paese comunque avanzato rispetto a molti altri paesi dell'Africa subsahariana. Quindi questi tre problemi erano fondamentali da risolvere prima di organizzare eventualmente delle elezioni, problemi che non sono stati risolti e che poi appunto hanno provocato, diciamo, una situazione di instabilità molto forte dopo le elezioni che si sono tenute nel 2010. Quindi anche possiamo affermare che c'è stata una territorializzazione, diciamo, che c'è stata appunto una territorializzazione del conflitto già a partire dagli anni 2000, no? Sì, assolutamente. Quella di oggi comunque sembra essere in qualche modo anche una continuazione di quel conflitto, cioè conflitto politico e conflitto, cioè, diciamo, soprattutto legato al controllo delle risorse della Costa d'Avorio. È difficile credere, cioè, che in realtà come dimostrano e come vogliono, diciamo, farci credere, ci si tratti principalmente di una guerra civile tra un leader che non vuole lasciare il potere per interessi personali e un altro leader che invece, cioè, appare sempre come vittima. In realtà, cioè, non credo che si possa parlare di vittima e carnefice, anche perché purtroppo la storia ci insegna, la storia, cioè, ci fa capire che gli interessi economici, soprattutto in Africa, sono la maggior parte delle volte le spinte maggiori e sono comunque le cause determinanti di tutte quelle che sono state le dittature, che lo sono ancora in Africa, cioè comunque legate alla manipolazione della classe dirigente, legate comunque alla corruzione, cioè qualcosa che è sempre stato manipolato, cioè comunque dall'esterno. E questo lo si vede anche appunto da questa presenza francese crescente che si è soprattutto la Francia, comunque, che non è la prima volta, dagli ultimi anni, e presenza che poi oggi è ancora più visibile, ma penso che lo dirai. Sì, assolutamente, cioè comunque è stata la Francia in un qualche modo a spingere, cioè ad andare ad elezioni presidenziali, pur sapendo che in realtà non era stato ancora dato il via dall'ONUSCI, che è la missione dell'ONU di pace per la Costa d'Avorio, che comunque avrebbe dovuto controllare, gestire le elezioni e soprattutto gestire e controllare anche il disarmo da parte dei ribelli. Quindi gli accordi di Ouagadougou hanno, diciamo, imposto da una parte che i ribelli deponessero le armi a fronte comunque di un arruolamento che poi comunque nell'esercito nazionale, e già questo comunque dovrebbe farci pensare. Cioè, pensate se qualcuno, diciamo, imponesse all'Italia un trattato, vabbè, l'Italia, diciamo, non è possibile fare un paragone, però pensate se qualcuno vi imponesse attraverso un trattato internazionale comunque di arruolare nell'esercito dei ribelli armati, cioè nel senso, comunque non è una cosa che ha deciso, cioè è una cosa che viene imposta dalla Francia in questo caso, cioè, non avviene a seguito di un processo, ma avviene a livello appunto forzato dall'alto, e questo poi naturalmente potrebbe anche... Che cosa provoca? Provoca una, come dire, scomposizione del potere coercitivo dello Stato. Se lo Stato ha un potere coercitivo coeso, questo Stato può avere un controllo abbastanza forte sul territorio nazionale e quindi anche sulle dinamiche, tra virgolette, di movimento che si possono creare all'interno. Smantellando l'esercito, questo lo si vede appunto in tantissimi, o comunque frazionando l'esercito in apparati clientelari o comunque in gruppi con interessi diversi, facenti capo di interessi diversi, questo vuol dire non avere appunto uno Stato coeso e stabile, ma garantire la possibilità a chi tenta di prendere il potere di avere una sua forza coercitiva propria all'interno di un organo istituzionale come quello dell'esercito. Certo. Appunto, per fare lo stesso sta avvenendo, per dirvi, in Palestina, no? Con le forze armate che erano gestite precedentemente dal movimento, appunto dall'ANP, da Abbas. È una strategia dettata a livello internazionale, e questo lo si vede in maniera molto evidente, come tu hai sottolineato, in Costa d'Avorio, una strategia per anche indebolire ed avere dalla propria parte un controllo maggiore sugli apparati istituzionali. Ma anche perché poi c'è un altro aspetto di questi accordi che appare controverso, la questione della Commissione Elettorale Indipendente. La Commissione Elettorale Indipendente è formata da una maggioranza rappresentativa comunque dei cosiddetti ribelli. Cioè, questo già ovviamente non può creare una situazione comunque di parità o di uguaglianza, cioè è inevitabile comunque. Già la Commissione Elettorale Indipendente ha problemi nell'organizzare le elezioni per tutta quella serie di problematiche messe in evidenza, cioè legate comunque alla mancata registrazione e documentazione delle persone. Poi ovviamente se viene composta, e questo è imposto dall'accordo di Ouagadougou, da comunque una maggioranza che ha una chiara, cioè, visione politica e comunque propende, è legata in ogni caso a Ouattara, perché questo è evidente, è vero, quindi c'è, cioè, già questo pure ci fa pensare comunque. Un altro aspetto degli accordi era quello di dare la cittadinanza a tutti ivoriana, a tutti gli stranieri, cioè comunque a tutti gli stranieri presenti sul territorio, considerando che la Costa d'Avorio ha 35% di popolazione diciamo straniera regolare, a cui vanno aggiunti poi tutti i ribelli che in realtà non sono regolari, e quindi dare anche, cioè, la cittadinanza ivoriana a Ouattara, perché non gli era, quindi, stata, diciamo, concessa, ma perché, scusami se no, ti prego, prego, scherzi. Non gli era stata concessa perché già nel 2000 il procuratore generale Christophe Séry Cousteau-Gros aveva eccepito, cioè aveva comunque rilevato delle anomalie sulla nazionalità di Ouattara. Perché? Perché si dicesse che Ouattara aveva due documenti di nascita. Il primo, che era registrato presso anche l'ufficio di immigrazione degli Stati Uniti, che lo vede nato in Burkina Faso. Il secondo, invece, presentato nel 2004 all'Ufficio Consiglio Costituzionale della Costa d'Avorio, lo vede nato in Costa d'Avorio, in una data diversa da quella del documento, rispetto a quella del documento di cui abbiamo. Vabbè, questa è una, diciamo, neanche questo ci deve troppo stupire, però in realtà, ecco appunto, anche qui, cioè, l'imposizione sicuramente dall'alto, cioè da parte, comunque dall'esterno, da parte della Francia, e quindi insomma è normale che già non si poteva partire con queste condizioni e non si poteva portare avanti una competizione elettorale, cioè neutrale. E quindi, ricapitolando un attimo rispetto a quello che tu hai detto, possiamo affermare che vi è stato un tentativo negli ultimi anni di istituzionalizzare la presenza dei ribelli, sia a livello militare all'interno dell'esercito, sia a livello di gestione del politico dall'alto, con la loro partecipazione o comunque il loro inserimento, la loro integrazione all'interno della commissione elettorale indipendente, sia poi a livello dell'esercito e poi sia a livello anche di cittadinanza. Sì. Quindi dare, proprio istituzionalizzare il loro peso, che da semplicemente di forza militare diviene una forza militare istituzionalizzata, un peso politico istituzionalizzato, con poi un peso politico anche a livello elettorale attraverso l'ottenimento della cittadinanza, no? Si può affermare questo, no? Sì, penso assolutamente di sì, cioè nel senso, comunque c'è stato sicuramente dietro tutto quello che tu hai detto il tentativo di scardinare un potere fastidioso, cioè scomodo, come quello di Babò, comunque, che aveva cercato in tutti i modi di slegarsi dall'economia diciamo neocoloniale, di slegarsi comunque dalle potenze occidentali, dagli Stati Uniti, e quindi sì, sicuramente attraverso i ribelli, cioè, cercare comunque di destabilizzare quel potere, di far giungere sulla scena politica, cioè, altri interlocutori che diciamo più legati alle potenze europee. Questo comunque appare essere evidente, cioè a prescindere adesso da quello che si può pensare dall'opinione su Babò e su diciamo Ouattara, in ogni caso questo meccanismo sembra essere molto forte e non però comunque nascosto dalla maggior parte delle testate, dei media occidentali. Quindi arriviamo invece alla competizione del 2010. Nonostante tutte le problematiche, quindi si arriva alle elezioni presidenziali. Sono 14 i candidati che si presentano, però diciamo i tre sono quelle figure più importanti, e sono Babò, Ouattara e Bédier. Allora, dopo il primo turno delle elezioni presidenziali abbiamo queste percentuali di voto. Allora, Babò votato con il 38% dei voti, Ouattara col 32% e Bédier con il 25%. E da questo momento in poi che si creerà tutta una situazione, cioè ingarbugliata e intricata, che poi è sfociata in questi disordini post-elettorali. Perché? Vediamo, diciamo, in modo, cercando di essere più chiari possibili, anche se a volte è molto difficile davanti a queste situazioni, che cosa è successo. Il 28 novembre si svolge il ballottaggio tra Babò e Ouattara. Il partito di Bédier, che era il terzo, cioè quello che era arrivato comunque con il 25% dei voti, si divide. Una parte va con Babò e una parte con Ouattara. Cioè, praticamente con Babò vanno i giovani, i deputati e le donne di questo, diciamo, partito, mentre Bédier effettivamente, invece, proprio lui nella sua persona, si schiera a favore di Ouattara. Anche se poi, qui lo anticipo, diciamo, ritratterà questo suo schieramento in seguito alle dichiarazioni violente, cioè tese a incitare la violenza da parte di Ouattara. Si scuserà pubblicamente attraverso un canale TV, diciamo, ritrattando il suo appoggio. Quindi la commissione elettorale indipendente comincia, diciamo, ad analizzare quelli che sono i risultati del voto, e già sin da subito c'erano state comunque denunce di illegalità del voto, cioè di voti comprati, di violenza, di minacce, estorsioni, insomma, comunque tutte, diciamo, segnalazioni che andavano ad evidenziare un processo che non si era svolto assolutamente in modo né pacifico e neanche corretto. Quindi la commissione elettorale indipendente cosa fa? Diciamo, incarta tutto e, consegna questi documenti al Consiglio Costituzionale. Cioè la Commissione Elettorale Indipendente avrebbe dovuto dare comunque pronunciarsi dopo tre giorni, entro tre giorni. In realtà decide di non pronunciarsi, chiede agli oriani di avere pazienza e consegna tutta la documentazione al Consiglio Costituzionale. Cosa succede? E qui comincia veramente il reale problema. Succede che il presidente della Commissione Elettorale Indipendente, questo Bakayoko, trasmesse le carte, qui il termine insomma viene usato nei modi, vengono usati diversi termini, chi dice sequestrato, chi accompagnato, chi ne usa altri, comunque viene raggiunto da quelli che sono i rappresentanti, anche qui forse non è molto chiaro perché c'è chi dice ambasciatore degli Stati Uniti, ambasciatore della Francia, comunque è portato presso il quartier generale di Ouattara. Il presidente della Commissione Elettorale Indipendente a un certo punto fa una dichiarazione in cui afferma che il vincitore delle elezioni è Ouattara, ma non la fa davanti alla TV ivoriana, davanti a France 24. E qui nasce il primo grandissimo problema. Perché? Perché anzitutto per la legge ivoriana non si può, non si possono dare i risultati di una competizione elettorale attraverso un canale non ufficiale. Seconda cosa, ormai la Commissione Elettorale Indipendente non era più in diritto di pronunciare comunque i risultati in quanto aveva trasmesso tutti gli atti del voto al Consiglio Costituzionale. E poi alla luce di quello che è successo prima della dichiarazione, questo fa pensare, ci sono comunque delle anomalie e delle preoccupazioni comunque molto forti nei confronti di questa dichiarazione. Cosa succede? Quindi questa dichiarazione, due giorni dopo il Consiglio invece Costituzionale dichiara vincitore Babò, alla luce comunque di un'analisi di tutte le di tutti gli atti comunque non reali, non legali, comunque decide, accoglie alcune illegittimità e proclama Babò come effettivo presidente della Costa d'Avorio. Da qui gli eventi sono noti, o almeno sono noti, nel senso da qui effettivamente nasce lo scontro principale tra Babò e Ouattara. Ricordiamo che il giorno in cui il Consiglio Costituzionale dichiara vincitore Babò, la Francia dichiara vincitore Ouattara. Cioè la Francia dice che in realtà pubblicamente il vincitore è Ouattara, e da lì a catena tutti i governi occidentali, le Nazioni Unite, l'Unione Europea riconoscono Ouattara i media ovviamente riconoscono Ouattara come presidente legittimo della Costa d'Avorio. E qui cominciano appunto, poi c'è le domande, anzitutto, cioè tutti questi paesi, queste nazioni occidentali, come hanno fatto, tra virgolette, a dichiarare la legittimità di Ouattara senza aver potuto naturalmente comunque visionare nessun documento, legato alle operazioni di voto? Come hanno fatto a visionare questi documenti in tempo così rapido? Ovviamente questo non è possibile, non credo che sia stato possibile, anche perché erano documenti riservati al vaglio del Consiglio Costituzionale. E quindi da lì è cominciato lo scontro. All'inizio Babò sembrava cercare di non fomentare comunque la violenza, di trattenere in tutti i modi, di cercare di non incitare comunque allo scontro. E Ouattara richiamava invece a sé comunque la popolazione ad una protesta contro Babò, pur rimanendo confinato in quello che è l'hotel del Golfo ad Abidjan, che lui non vuole lasciare perché dice che la sua posizione è fondamentale, perché andarsene via comunque da Abidjan vorrebbe dire riproporre questa divisione tra nord e sud, cioè spostarsi in un'altra zona, nella zona comunque di provenienza di Ouattara, anche perché ricordiamo la Costa d'Avorio comunque è divisa, non era effettivamente divisa prima del 2002, però è caratterizzata da una presenza di c'è una forte popolazione musulmana al nord e cristiana al sud, un sud comunque molto molto ricco, un nord un po' che vive una situazione sociale comunque più difficile e meno prospera. In ogni caso, quindi c'è attualmente questa situazione. Adesso, prima di fare delle altre considerazioni, io vorrei far presente alcuni articoli, alcuni titoli di quella che è la, una parte, una piccola parte, perché comunque la Costa d'Avorio ha una notevole, diciamo, un notevole fermento culturale e intellettuale, quindi i giornali, i quotidiani sono tantissimi. Comunque alcuni, farvi presente alcuni dei titoli della stampa ivoriana. Allora, c'è un quotidiano che si chiama Ma Côte d'Ivoire, la mia Costa d'Avorio, e che ha, diciamo, con toni molto rabbiosi e molto accesi, mette in evidenza il razzismo da parte dei capi di Stato, cioè internazionali ed europei. Razzismo che si evidenzia nel non riconoscimento comunque della volontà degli africani, continuano ad accusare gli africani di essere prelogici, di non essere capaci di organizzarsi, quindi di non essere capaci di gestire comunque una competizione elettorale che sicuramente diciamo si è svolta nel modo che loro, diciamo, cercano di diffondere, e quindi africani incapaci di ergersi come comunque padroni del destino, cioè del loro destino. Quindi un articolo, cioè, da veramente molto molto cioè da toni molto molto arrabbiati. Poi abbiamo invece altri articoli, ad esempio, sentite questo, addirittura il quotidiano, lo dico per semplicità in italiano, L'Intelligente di Abidjan, diffonde un articolo dal titolo "Operazioni manipolite in Costa d'Avorio, la Banca Mondiale e il Fondo Monetario si attivano". Questo la dice abbastanza lunga. La dice abbastanza lunga. O ancora, Sovranità Africana ieri aveva in prima pagina un articolo dal titolo "Il mondo non può essere cambiato senza lottare contro la propaganda occidentale". Sempre qui, anche in questo articolo, si mette in evidenza come, cioè, come l'informazione sia cambiata nel corso degli anni, come comunque, soprattutto nel caso adesso della Costa d'Avorio, le maggiori testate giornalistiche del mondo del nord, del mondo occidentale, ovviamente non mettono più in discussione, cioè, quello che viene detto dai loro governi. L'informazione non si fa più sul campo e diciamo si fa invece un'informazione alternativa, si cerca di fare secondo canali non convenzionali che non riflettono necessariamente la logica di potere occidentale o comunque la visione eurocentrica, ma non solo, del mondo. Poi abbiamo invece Ivorian.net, sì, anche questo è assolutamente pro Babbo. Comunque viene visto in quasi tutti questi, da queste testate giornalistiche che io ho detto fino adesso, come in realtà un capo di Stato problematico, scomodo, però rappresentativo di tutti gli ivoriani, cioè, e anche in questo caso si lanciano dei piccoli, diciamo, semi di discussione. Anzitutto, cioè, i partiti ivoriani in questo caso e dopo queste competizioni in realtà non hanno protestato, perché, cioè, nessuno si è fatto sentire, nessuno ha comunque accusato la commissione elettorale indipendenza o comunque di averli sfavoriti, nessuno ha detto Babbo se ne deve andare, cioè comunque è stato veramente un conflitto a due per modo di dire, comunque tra Ouattara e diciamo Babbo. Però ci sono state comunque molte manifestazioni di sostegno a Babbo in questo periodo. Quindi comunque ritorna, cioè, questa mettere in evidenza l'ingerenza da parte comunque del mondo occidentale. E Ivorian.net nella prima pagina appunto dice che questo senatore americano Inhofe, membro del Comitato dei Servizi Armati del Senato e del Comitato Relazioni Estere del Senato, sempre, avrebbe detto che avrebbe suggerito al segretario di Stato Hillary Clinton di cambiare politica e di diciamo suggerire, per uscire da questa situazione di impasse di violenza, una assolutamente nuove elezioni in Costa d'Avorio. Forse l'unico modo, secondo lui, per diciamo superare questo momento, cioè questo momento problematico. Quindi vi è un discorso che potremmo definire, cioè, quasi binomico tra una parte, esatto, della società ivoriana che giudica Ouattara come esponente delle potenze occidentali e degli interessi occidentali, sì, sia per la sua natura personale, perché educato, formato, all'estero, quindi la sua origine individuale, sia per gli interessi che porta avanti, dall'altra un appunto candidato presidente che secondo il Consiglio Costituzionale aveva vinto le elezioni, che invece viene quasi rappresentato come un esponente dell'ivorianità, del carattere ivoriano, comunque della popolazione, sì, della popolazione appunto della costa d'Avorio, possiamo dire questo. Mentre per quanto riguarda le politiche portate avanti, si tratta sempre comunque di politiche di stampo liberista, oppure vi sono, diciamo, vi è un discorso, una progettualità politica da parte dei due? Allora, fra i due, vabbè, considerando che Ouattara non è mai andato al potere, ma in ogni caso, quindi cioè, abbiamo ben poco da, cioè, abbiamo a parte parole, fatti molto pochi, però in ogni caso Ouattara sicuramente è un sostenitore del liberismo economico, cioè nel senso, non ha, questo è assolutamente fuori dubbio, mentre comunque Babbo in un qualche modo ha cercato di portare avanti una politica diversa. Ovviamente ricordiamoci che Babbo al potere dal 2000 al 2002 effettivamente, quindi questo è importante per capire che molte delle riforme che diciamo cercava di portare avanti o che avrebbe voluto approvare non sono andate a buon fine, perché cioè, due anni di governo e poi l'inizio di una guerra civile, cioè sicuramente è ha una politica completamente diversa da quella, cioè sia di Boigny, di Badier, che comunque di Ouattara. Lui cerca comunque di non piegarsi agli interessi economici, cioè di avere comunque un'attenzione nei confronti comunque anche delle classi sociali diverse. Però lo ripeto, è veramente difficile, cioè ma proponeva nazionalizzazioni, per esempio, oppure sempre un rapporto dialettico comunque con le organizzazioni internazionali economiche, giusto? Ma oddio, no, dialettico, cioè Babbo in realtà proprio dialettico non si può dire, proprio perché in realtà ha cercato in tutti i modi di scrollarsi di dosso, cioè il peso e l'ingerenza, soprattutto in questo caso della Francia, cioè quindi anche con atteggiamenti, con chiusure comunque molto molto forti. Ovviamente cioè, è questo che poi non è andato, cioè non è andato assolutamente a genio comunque alle potenze occidentali, considerando che poi la Costa d'Avorio si è rivelata anche un ricco bacino per, certo, il petrolio, certo, cioè esatto, per diamanti, per l'oro, eccetera. Senti, ma non c'è in generale in quell'area, in tutta l'Africa nera, c'è la presenza non invadente ma della Cina crescente, non è che c'è in questo momento non se ne parla in Costa d'Avorio, anche perché allora ricordiamoci che in Costa d'Avorio tutto dallo scoppio diciamo del conflitto nel 2002 ma anche precedentemente c'era stata tutta una politica contro, cioè, lo straniero, cioè gli stranieri, ecco, esatto, cioè nonostante in Costa d'Avorio ci sia, come diciamo prima, 35% di immigrati regolari, 25% di stranieri, tra cui anche spagnoli, cioè comunque occidentali, però ricordiamoci che appunto la politica dello straniero, diciamo dell'espulsione, tra l'altro, comunque era stata diciamo portata avanti anche da Badier, che lo aveva applicata poi appunto anche nei confronti di Ouattara stesso, che era comunque accusato di non essere un ivoriano puro. Però insomma, sì, in realtà. Quindi diciamo il discorso della presenza cinese economica non è evidente come, cioè, una delle questioni carni, no, come in altri contesti, no, dell'Africa subsahariana. Poi comunque ci furono sempre nel periodo dello scoppio della guerra civile del 2002 anche l'espulsione di moltissimi stranieri residenti o comunque viventi che vivevano in Costa d'Avorio. Ora si parla di 500.000 rifugiati in Liberia, e sicuramente fra quei 500.000 ci saranno anche comunque cittadini, soprattutto cittadini non ivoriani, che ha per paura di ritorsioni naturalmente comunque, ma anche proprio per la violenza che sembra essere abbastanza diffusa e diciamo aspra, cioè comunque forte in questo periodo, in questi giorni. E in questo conflitto hai parlato fino adesso dell'interesse, dell'attenzione che alcune potenze occidentali hanno avuto nei confronti del binomio, no? Del dualismo tra Babbo e Ouattara. Qual è invece la posizione degli stati africani? No? Nel senso, loro sono stati coinvolti, sì, in queste tensioni, no? Oppure? Eh beh, certo, sì, infatti adesso ci sarei arrivata, perché non in realtà volevo solo dire un'ultima cosa sui quotidiani e sulla stampa ivoriana. E c'è comunque, tra l'altro, poi un altro, e chiudo e poi passo alla tua domanda. C'è un ultimo dei tanti quotidiani che ho visto, che si chiama Info Côte d'Ivoire, che scrive: manovre francesi per installare al potere il capo terrorista Ouattara. Questo è molto ancora più duro, e parla di questa operazione Hydra, un'operazione decisa, pianificata dalla CIA in particolare, poi dal Centro Operazioni Speciali della Francia e dall'ECOMOG, cioè il gruppo di monitoraggio della comunità economica degli stati dell'Africa occidentali. Quindi un'operazione che sarebbe partita da Abidjan, con comunque insurrezioni, con attacchi, cioè nei vari quartieri di Abidjan, e che poi si sarebbe dovuta estendere comunque a tutti i paesi, cioè a tutte le città della Costa d'Avorio, e che secondo fonti riservate, questo ve lo dico, cioè è quello che ho letto e quello che era riportato sul quotidiano, secondo fonti riservate questa operazione sarebbe terminata, o comunque sarebbe dovuta terminare, entro la fine di aprile. Quindi comunque, e infine, perché questa è una figura che sembra essere presente in tutti i blog, in tutti i siti in cui si parla di Costa d'Avorio, c'è questa persona che scrive sempre, soprattutto a seguito di articoli sulla situazione attuale della Costa d'Avorio, che è questa Emanuela Preti Faloci, che praticamente, lo dico perché mi ha molto colpito, nel senso, perché veramente ogni volta che c'è un articolo comunque sul blog o sui blog o sui siti dei giornali, dei quotidiani, lei dice che in realtà appunto non si può parlare di guerra civile, ma di guerra di invasione da parte degli Stati Uniti, che lei, che vive in Costa d'Avorio da anni e che è stata, a quanto pare, a quanto dice lei, comunque anche direttrice dell'ufficio comunicazione e ufficio stampa della FAO in Costa d'Avorio, cioè continua a ripeterlo sin dal 2002, cioè che in realtà si sta cercando di far passare Ouattara come il liberatore, mentre in realtà è solamente una pedina appunto delle potenze occidentali, e Babò che sta cercando in tutti i modi, oltre che di portare avanti una politica di non violenza, nonostante gli appelli all'esercito, comunque la difesa, o comunque anche azioni che uno potrebbe condannare, ma in ogni caso, a prescindere da quello, appunto Babò, stanno dipingendo Babò come il carnefice, quando in realtà chi sta in Costa d'Avorio sa benissimo che la situazione non è quella. Quindi c'è, cioè, questo per dirlo, perché è veramente onnipresente. Ritornando al tuo discorso, cioè quindi a quello dell'Unione, questo è un discorso, cioè, abbastanza complesso, nel senso che allora alcuni paesi sono schierati apertamente a favore di Babò. Parliamo di Angola, Zimbabwe e Uganda. Ovviamente c'è chi dice, come l'Economist tra l'altro, che è normale, comunque ci sono, questi paesi non sono paesi, cioè, democratici, che ad esempio Mugabe è il fornitore di armi di Babò, che c'è, cioè, comunque questo è uno schieramento, insomma, che si poteva prevedere. Ma a prescindere da queste, diciamo, posizioni, a questo punto qui la apro un'altra breve parentesi, perché veramente le cose, cioè, a volte sono così tante che da dire, che mi dispiace se posso sembrare comunque un po', diciamo, confusionaria, però apro un'altra breve parentesi anche sulla Repubblica, tra l'altro c'è un articolo sulla Costa d'Avorio in cui ci si chiede, no, perché questo è, diciamo, secondo me è un po' indicativo, ci si chiede: i ribelli guidati da Ouattara, o comunque, cioè, le forze guidate da Ouattara continuano a diventare sempre più imponenti e armate in modo massiccio, e chi è che arma queste persone? Cioè, perché obiettivamente, cioè, non, allora questo è sicuramente una domanda da porsi, poi ovviamente ognuno dà la risposta che crede, cioè, diciamo, che si può in parte sia comprendere o che crede che sia giusta, però ecco, cioè, mo, perché parlando di Mugabe e della diciamo fornitura di armi ipotetica a Babò, mi è venuta in mente questa cosa. Quindi abbiamo questi paesi in parte che si sono schierati con Babò, abbiamo un Sudafrica che ha avuto una posizione molto cauta. In Sudafrica in realtà prima di pronunciarsi è andato, cioè, in Costa d'Avorio e diciamo si è cercato di accertarsi della situazione, poi ha portato avanti una mediazione che poi è quella appunto dell'Unione Africana, che suggeriva sì l'elezione di Ouattara, però un'uscita dignitosa di Babò, comunque un'uscita, cioè, non violenta, non contestata, non un esilio, ovviamente soluzione che Babò ha rifiutato nel modo più assoluto. E In realtà, oltre a questo, prima c'era stata anche l'idea di fare un governo di unità nazionale, cioè quindi tra sia con Gbagbo e con Ouattara, un'ipotesi che è stata assolutamente osteggiata dall'ECOWAS. Perché? Perché in realtà l'ECOWAS è assolutamente interessato alla stabilità della regione, ovviamente si parla sempre di interessi, diciamo, economici, e quindi non intende assolutamente accettare una situazione che comunque non apporterebbe stabilità reale al paese. Poi c'è poi ovviamente anche c'è da dire un'altra cosa. Nei mesi a partire da dicembre, o comunque a partire dalla fase post-elettorale, ci sono stati numerosi appelli comunque alla comunità internazionale per cercare di mediare, di portare, diciamo, una soluzione pacifica anche da parte dell'Unione Africana, comunque in Costa d'Avorio. Ovviamente comunità internazionale che non ha assolutamente, diciamo, accolto questa richiesta. Perché? Perché in parte c'è, cioè, comunque non credo proprio disinteresse. E poi la Francia stessa, che comunque ha un ruolo così forte in Costa d'Avorio, è stata, cioè, ha dimostrato di in realtà di non cioè di non volersi impegnare più di tanto, nonostante sia presente comunque militarmente in Costa d'Avorio, anche perché e poi ovviamente tutto quello che è successo in Nord Africa, cioè l'attenzione che si è spostata, cioè sul Maghreb, comunque i conflitti, certo, le rivoluzioni, certo, che si sono prodotte in quei paesi. E quindi ecco, diciamo, una situazione abbastanza, diciamo, complessa, che non sembra in realtà destinata a terminare, cioè, diciamo, a breve, però vedremo come va in questi giorni. Ok, ci prendiamo una pausa e poi diamo uno sguardo altrove. Allora, ritorniamo alla Costa d'Avorio e Per dire per dare poi una notizia anche molto importante che non ha trovato proprio spazio nella riflessione fatta poc'anzi. Allora, è fondamentale sapere che Babò il 7 marzo scorso ha emanato un decreto per la nazionalizzazione dell'intera filiera del cacao, di cui la Costa d'Avorio è il primo produttore mondiale. Ovviamente questa sua decisione è stata conseguente al tentativo di asfissia finanziaria e economica che Ouattara ha portato avanti per costringere il suo rivale a lasciare il potere, perché Ouattara aveva deciso che fino al 15 marzo la Costa d'Avorio non avrebbe più esportato caffè e cacao. E allora il divieto che complessivamente è stato accolto dagli esportatori, ma gli esportatori che sono comunque società multinazionali francesi principalmente, però ha provocato delle reazioni molto forti tra nelle cooperative di produzione del cacao, perché naturalmente cooperative che hanno una produzione circa più o meno annuale di 1.300.000 tonnellate di cacao. Quindi cosa ha fatto Babò per evitare comunque una ricaduta disastrosa sull'economia di questi produttori? Ha deciso di conferire allo Stato l'esclusiva delle operazioni di acquisto e di esportazione del cacao e del caffè, sequestrando comunque anche gli stock che erano stati bloccati nel porto di San Pedro, che però è stato poi riconquistato dai ribelli qualche giorno fa, comunque dalle forze di Ouattara. Quindi è una situazione anche ricollegandomi anche a quello che diceva Anthony prima, difficile, nazionalizzazione sì, ma comunque in un clima di completa paralisi economica e finanziaria. Ricordiamo che quasi tutte le banche hanno chiuso in Costa d'Avorio per motivi di sicurezza, e che quindi in questo modo impediscono anche agli ivoriani di di avere come soluzione provvisoria o comunque di ricorrere a quelli che sono gli aiuti dall'estero, grazie magari al servizio bancario. Quindi è una situazione per il momento molto difficile. Si può, da questo punto di vista, possiamo affermare quindi che la politica di nazionalizzazione di Babò, avvenuta con questo decreto del 7 marzo, sembra quasi più uno strumento politico per fare pressione su magari chi sosteneva o chi sostiene ancora Ouattara, e che quindi non era d'accordo con questa politica di nazionalizzazione, più che una linea di lungo periodo adottata da Babò. Questa è una situazione legata al contesto, togliere il terreno sotto i piedi a Ouattara, perché Ouattara comunque così voleva vietando comunque vietando l'esportazione comunque di cacao e di caffè, cercava di evitare che Babò avesse comunque delle entrate economiche a cui attingere, quindi di bloccarlo, proprio di bloccare tutte le sue fonti economiche, e quindi ovviamente poi il pagamento degli eserciti e delle forze a lui legate. Comunque, per fare un quadro della situazione, possiamo dire in generale la Costa d'Avorio si trova